Vado a dare la parola a Federico Faloppa, professore di Italian Studies e di Linguistica presso il Dipartimento di Languages and Cultures dell'Università di Reading. Oggi non può essere fisicamente qui con noi, ma è in collegamento. Ciao Federico, ben arrivato. Buongiorno. Il tuo intervento ha questo bellissimo titolo, Il dito e la luna, il politicamente corretto tra mito e realtà. Grazie, buongiorno. Grazie Emanuela, buongiorno a tutte le persone che sono presenti lì in sala e a quelle che ci stanno ascoltando da remoto. Mi dispiace non essere lì con voi oggi, purtroppo problemi di salute mi hanno impedito di viaggiare e ogni tanto mi toccherà, temo, tossire, purtroppo mi dispiace, ve lo dico subito in anticipo. E spero però che la mia breve relazione possa dare degli spunti utili al proseguimento della giornata e dei lavori lì in sala. Non indugio oltre e passo subito alla condivisione delle slide, sperando che tutto funzioni. Allora, qualche secondo di pazienza. Io non vi vedo purtroppo, ma spero voi vediate le slide. Se qualcuno mi dà una conferma vocale. Sì, funziona tutto perfettamente. Grazie, Manuela, grazie. Ecco, il dito e la luna, il politicamente corretto tra mito e realtà. Io provo, nei minuti che ho a disposizione, a raccontarvi qualcosa su questa espressione, su come, secondo me, ma secondo noi, l'ho già anticipato Manuela, questa espressione è stata utilizzata anche fuori contesto, anche con tono polemico, anche retoricamente per disarticolare invece i temi di cui andiamo a parlare oggi, e provo anche a accennare ad alcune questioni aperte che mi sembrano molto importanti quando parliamo di politicamente corretto. Allora, proviamo a vedere un po' di che cosa appunto parlerò nei minuti che ho a disposizione. Puntare il dito sul politicamente corretto, cercherò molto velocemente di fare una breve panoramica sull'uso dell'espressione politicamente corretto in italiano e non solo, per passare poi a quella che Manuela ha già anticipato, no? L'espressione dittatura del politicamente corretto, che vediamo e sentiamo molto spesso e che in qualche modo inquina il dibattito su questo tema, perché già ci dà una prospettiva di un certo tipo. Cercherò molto brevemente di raccontarvi un po' la storia dell'espressione, per cercare anche di capire quando retoricamente è stata funzionalmente utilizzata da alcuni pensatori, da alcune parti politiche, proprio per cercare di dirottare il dibattito, e cercherò appunto di, anche molto velocemente, di dare un'occhiata a quello che è successo nel passaggio dall'inglese all'italiano, per concludere con alcune questioni aperte, quindi dal dito appunto alla luna, come dice il titolo della mia relazione oggi. Puntare il dito oggi sul politicamente corretto è abbastanza facile. Nel libro che abbiamo scritto a più mani, saluto Vera Gheno che è in sala, ciao Vera, anche Vera ha contribuito a questo volume e altre persone che conoscete, non si può più dire niente, edito da UTET, pubblicato pochi mesi fa, ho cercato in un mio articolo, in un mio pezzo, di ragionare intorno all'espressione politicamente corretto. E in modo molto impressionistico, quando scrissi il pezzo nell'autunno del 2021, cercare di fare una conta, più o meno, appunto alla buona, di quante ricorrenze dell'espressione si potessero trovare in un archivio come quello di Repubblica, dal gennaio 2020 al novembre 2021. E trovai circa 400 articoli contenenti l'espressione politicamente corretto, molti di più di quelli che, per esempio, nello stesso periodo contenevano l'espressione curva epidemica, che sul piano sociale della comunicazione certamente nei 2 anni scorsi ha avuto un grande impatto. E quindi si è parlato molto di politicamente corretto e si è parlato anche molto di politicamente scorretto. Le eccezioni quindi erano molte. Questo era semplicemente in modo impressionistico per introdurre il tema, cioè si parla e si scrive molto di politicamente corretto. Come se ne parla e come se ne scrive. Se da quel mio tentativo impressionistico ci spostiamo a una visione un po' più scientifica, utilizzando per esempio dei grandi corpora di dati come quello di Italian Web 2020, che ha 15, circa 13 miliardi di parole all'interno del corpus, raccolte tra il 2019 e il 2020, e e si possono appunto processare queste parole e le loro collocazioni, le loro frequenze attraverso Sketch Engine, che è un software accessibile anche online. Ebbene, se noi mettiamo l'espressione politicamente corretta e quindi la cerchiamo in questo corpus che va a pescare in circa 30 milioni di documenti disponibili online, appunto nel biennio 2019-2020, troviamo che ovviamente abbiamo la collocazione linguaggio. Ma guardate anche le altre parole che si coccollano con politicamente corretto. Intellettuale, bisognerebbe poi capire l'uso, appunto, e la connotazione di questa parola, relativismo, establishment, multiculturalismo, eufemismo, conformismo, mainstream, perbenismo, propaganda, eccetera. Interessante perché questo ci permette di avere una visione un po' più ampia e anche di capire quali sono i campi semantici che vengono coinvolti quando l'espressione politicamente corretta compare nei testi. Tra le collocazioni interessanti c'è quella di dittatura, dittatura del politicamente corretto. Non è la collocazione più frequente. Linguaggio politicamente corretto ha 300 occorrenze in quel corpus, ma poi vedete anche conformismo, vedete anche buonismo. Dittatura non è la collocazione più frequente, tuttavia è molto frequente ed è interessante anche capire come si presenta. Qui avete nella schermata solo alcuni casi, alcuni esempi di testi che includono l'espressione politicamente corretto e dittatura del politicamente corretto all'interno di questo corpus molto ampio che vi ho anticipato, di cui vi ho parlato. Ebbene, se date un'occhiata a questi esempi, sono una ventina, avrei potuto metterli tutti e 200, ma non ci stavano nella slide, però sono una ventina, i primi 20, dittatura del politicamente corretto, appunto un'espressione che ricorre, vedete anche come viene formulata. La cosa interessante, e vado un po' rapidamente, è che quando si parla di dittatura del politicamente corretto si ricorre a un'implicatura, e cioè si presenta come se fosse un dato di fatto, l'ho chiamato l'elemento fattivo. Un elemento fattivo che si trova in molti testi che cercano di essere persuasivi sul tema. Guardate questo testo di Ernesto Galli della Loggia, Un punto di vista fantasma, ma soltanto in pubblico, un articolo che è stato molto commentato nel Corriere della Sera nel novembre del 21, in cui Galli della Loggia parla di dominio del politicamente corretto, i canoni del politicamente corretto progressista, eccetera. E nei commenti che sono seguiti alla pubblicazione del testo si trova la dittatura del politicamente corretto, quindi grazie a Galli della Loggia che in qualche modo l'ha denunciata, questa dittatura. Qual è l'elemento implicito e fattivo? Che non si dà un'ipotesi, che si dice che c'è una dittatura del politicamente corretto, appunto la dittatura, il dominio, i canoni del politicamente corretto. E quindi questa dittatura si dà quasi come un dato di fatto. La cosa interessante è che quando poi si cerca di capire come viene presentata questa dittatura del politicamente corretto, è come se mancassero delle informazioni, è come se il punto di vista fosse molto ampio, anche un po' vago. L'articolo che avete sotto gli occhi adesso, davanti agli occhi, quello di Luca Ricolfi, Politicamente corretto, le cinque varianti delle parole, pubblicato da Repubblica nel 31 ottobre del 21, cerca appunto di denunciare il politicamente corretto e quello che può fare in termini di danni, non solo nel linguaggio, ma anche nella società, cercando di spiegare di che cosa si tratta. Tuttavia, se andiamo a leggere il testo, vediamo che Luca Ricolfi non dice esattamente quando è nato il politicamente corretto, è molto vago sulle sue origini, sui suoi usi anche dell'espressione e anche sulla storia, non soltanto dell'espressione, ma del concetto. Quindi si denuncia moltissimo il politicamente corretto e la sua dittatura, tuttavia, quando si cerca di spiegare di che cosa si tratti, rimane molta vaghezza anche nei commentatori che cercano di essere più puntuali sul tema. E quindi il problema si pone per noi. Esistono delle definizioni di politicamente corretto che possono aiutarci a dipanare un po' la matassa? Ce n'è una che io ho riprodotto qui, di Rita Fresi, una linguista, la voce politicamente corretta nell'Enciclopedia dell'Italiano, che potete leggere, espressione anglo-americana, che designa un orientamento ideologico e culturale di estremo rispetto verso tutti, nel quale cioè si evita ogni potenziale offesa verso determinate categorie di persone. Vedete, è abbastanza positiva come definizione, la connotazione che si dà è abbastanza positiva. Designa un orientamento ideologico e culturale di estremo rispetto. Tuttavia, anche qui si presuppone che esista questo orientamento ideologico e culturale, che ci sia, che sia un dato di fatto, appunto, anche se non si sa esattamente bene chi l'abbia presentato e poi anche in qualche modo promosso e in quale forma si presenti. Political Correctness di Hughes di qualche anno fa è un libro che cerca di ricostruire anche nell'inglese appunto le definizioni e la storia semantica di questa espressione. E se allora andiamo alla storia semantica dell'espressione, ci sono credo delle cose interessanti che vanno a toccare anche gli altri temi di cui parlerete dopo appunto il mio intervento. La storia ci dice che l'espressione politicamente corretto in inglese si è usata da alcuni secoli, si usa da alcuni secoli, però non con il significato che le riconosciamo oggi, e cioè nei primi testi del XVIII secolo, per esempio, si usava nel senso di appropriato al contesto, come vedete appunto dalla slide. Poi nel Novecento pare che sia stato il vocabolario marxista-leninista a introdurre politicamente corretto nell'accezione ideologica, appunto, che in qualche modo viene collegata all'espressione. E quindi per indicare l'aderenza alla dottrina o all'ortodossia, in questo caso del Partito Comunista Sovietico. Ancora pare che anche Mao, appunto, l'abbia utilizzato nei suoi scritti. Lo sappiamo questo dalle traduzioni che sono state poi rese accessibili e disponibili dagli anni 60 in poi. Politicamente corretto, questo invece è più certo, si trova in molti documenti di partiti aderenti alla Terza Internazionale, quindi c'è effettivamente una tradizione politica in cui l'espressione in qualche modo è di casa. Sono usi appunto che richiamano l'ortodossia, cioè politicamente corretto, ovvero aderenti a una linea, alla linea del partito. Ma si iniziano anche a vedere degli usi sarcastici, ironici, in cui ci si lamenta della troppa ortodossia o di un'aderenza acritica a una linea, e quindi l'espressione viene utilizzata in modo appunto ironico negli stessi testi di questi partiti e di questi leader della Terza Internazionale. Dagli anni 60 in poi l'espressione diventa più popolare, anche perché viene tradotto appunto nel cosiddetto libretto rosso di Mao, un corpus di scritti di Mao, e l'espressione incomincia a diffondersi nella New Left statunitense, e dalla New Left si diffonde anche nei primi movimenti femministi appunto degli anni 60, insieme all'acronimo PC, politicamente corretto, political correctness o politically correct, con valore non soltanto dottrinario, come era quello delle origini, ma anche già con valore politico, polemico, di genere, e cioè politicamente corretto viene utilizzato nel contesto del discorso femminista, dei movimenti femministi, per evidenziare delle contraddizioni nel pensiero della stessa New Left, come vedete dagli esempi. E quindi un'espressione che diventa caustica, corrosiva, usata anche ai danni delle donne, tra l'altro, quando negli anni Ottanta, per esempio, il dibattito si spostò sull'argomento pornografico, sulla pornografia. Una parte del movimento femminista disse: siete troppo politicamente corrette se censurate appunto questo dibattito, e invece dovremmo tenerne conto perché potrebbe essere un dibattito emancipatorio anche per quanto riguarda i discorsi appunto legati ai movimenti femministi. E l'espressione appunto continua a circolare anche se in ambiti molto ristretti fino a tutti gli anni Ottanta. Una svolta avviene quando, alla fine degli anni Ottanta, l'espressione viene utilizzata molto frequentemente da alcuni intellettuali, diciamo così, conservatori, oppure che cercano di criticare un certo tipo di pensiero progressista. Vi ho elencato e vi elenco nella slide i principali testi in cui questa espressione viene caricata in questo modo, cioè c'è il pericolo di un PC-ism, come dice Dorothy Rabinowitz in un articolo del Wall Street Journal del 1990. Addirittura c'è un PCismo, con questo ismo che ne sottolinea la deriva in qualche modo appunto ideologica, ma Alan Bloom e poi Kimball e Bernstein invece ne sottolineano in qualche modo la pervasività. e cioè c'è il pericolo che nei college statunitensi si diffonda sempre di più una cultura relativista sul piano culturale, che si chiama politicamente corretto, appunto, e quindi che questo crei un clima di intolleranza, un dibattito asfittico, una spinta al conformismo. Questa vulgata si diffonde moltissimo all'inizio degli anni 90, al punto che Newsweek, che al tempo aveva 3 milioni di lettori e lettrici, dedica la sua copertina del numero del 24 dicembre del 90 appunto alla polizia del pensiero, legando quest'idea a quella del politicamente corretto. Ora, è vero che nei college si iniziò un dibattito sul politicamente corretto e anche sulla presenza di minoranze che si stavano affacciando. Anche i college dell'Ivy League, quelli più prestigiosi degli Stati Uniti, grazie alle borse di studio, grazie a delle politiche di inclusione, all'affirmative action, come venne chiamata allora, cioè anche le minoranze, anche chi non ha le risorse, può accedere ai college più prestigiosi, e quindi bisogna occorre che i college si, in qualche modo, dotino non soltanto di codici verbali, ma anche di curricula più aperti a una varietà, appunto, di utenti o di studenti che in quegli anni stava raggiungendo appunto il college. Quindi c'è un dibattito effettivamente. Tuttavia, questo conformismo, questo clima di intolleranza, questo relativismo culturale che appiattirebbe tutto, che anzi diventerebbe una polizia del pensiero, viene evidenziato dalla destra per disarticolare, questo è il punto, quelle rivendicazioni invece progressiste, che volevano che anche le minoranze avessero uno spazio, una voce e una presenza fisica e politica, anche appunto per rompere gli schemi di classe sociale, cioè anche le persone povere che vengono da alcune minoranze possono accedere finalmente agli istituti superiori, appunto, di educazione negli Stati Uniti. Questo evidentemente non andò giù a un certo mondo invece conservatore, che proprio in quegli anni in qualche modo subiva il colpo di coda del reaganismo, e cioè bisogna silenziare appunto degli spazi liberali, e bisogna invece far credere che il pericolo sia quello di un'apertura eccessiva del nostro mondo, e quindi bisogna trattenere, ritenere le politiche di chiusura, di conflitto, di decostruzione, per esempio, delle forze intermedie, dei soggetti intermedi, sindacati, gli intellettuali nella società americana, che è quello esattamente che fece Ronald Reagan, appunto, soprattutto nella sua seconda presidenza. E addirittura quando poi Bush padre prese la parola per, come dire, iniziare l'anno accademico all'Università del Michigan, una delle università, tra l'altro, che aveva introdotto alla fine degli anni Ottanta quei codici di condotta verbale rispettosi delle minoranze, contro cui si scagliarono gli intellettuali di destra, ebbene, Bush disse che il pericolo degli Stati Uniti era proprio quello del politicamente corretto, della correttezza. Se ci fate caso, anche nel 2015, quando Donald Trump ha annunciato la sua candidatura alla presidenza, usò più o meno le stesse parole, cioè disse: il pericolo maggiore negli Stati Uniti oggi si chiama politicamente corretto. Questo vuol dire che proprio in quegli anni si affermò l'espressione politicamente corretta, soprattutto con questa connotazione già ideologicamente negativa, già appunto in qualche modo discriminante sul piano del discorso. E la pubblicistica poi venne dietro a questo tipo di lettura. Non abbiamo tempo di andare nel dettaglio di questi testi per ragioni di tempo. Vediamo che cosa successe in italiano. In italiano, quando l'espressione dall'inglese venne traslata, appunto, anche nel nostro linguaggio, nella penisola, nella lingua italiana, ebbene, arrivò già con una connotazione di quel tipo, cioè conservatrice, cioè ideologicamente chiusa, cioè come se fosse appunto un modo, un movimento, uno strumento per limitare il pensiero, per censurare le voci e il dibattito democratico. Qui vedete un articolo di Marco Aldi pubblicato sulla Repubblica, nel quale tuttavia il politicamente corretto viene visto ancora come qualcosa di allogeno, di altro, di estraneo, che appartiene al dibattito negli Stati Uniti o nel mondo anglosassone o in un certo contesto sul tema della colonizzazione o della decolonizzazione. Tuttavia, subito dopo, il politicamente corretto invece divenne anche un tema squisitamente italiano. Mirella Serri ne parlò appunto nella stampa nel 96 come di un ciclone che si stava probabilmente abbattendo anche in Italia, proprio per questioni italiane, non soltanto legate alla storia degli Stati Uniti o a quel dibattito là, ma anche per un dibattito tutto interno. Come ci comportiamo, scrisse Mirella Serre, linguisticamente parlando, scusate, con le minoranze, con gli immigrati, con le donne, con i gay, sta per piombare anche da noi, sull'esempio degli USA, il ciclone del politicamente corretto. Interessante anche questa collocazione del ciclone. Un testo molto, molto importante per noi e per questo discorso è quello di Flavio Baroncelli, Il razzismo, una gaffe, eccessi e virtù del politically correct, che in qualche modo evidenzia però anche le lacune del dibattito italiano nel momento in cui questa espressione si fece sempre più diffusa e popolare. Secondo Baroncelli, infatti, da noi venne presa pedissequamente la connotazione negativa che le era stata attribuita appunto all'espressione negli Stati Uniti, perché mancava ancora una sensibilità verso alcune dinamiche linguistiche, perché si era ancora legati alle grottesche vicende linguistiche del ventennio fascista, cioè si pensava alla censura linguistica come a quella censura linguistica appunto che avevamo sperimentato. Si pensava quindi a qualsiasi diciamo tentativo di negoziare il linguaggio come una censura linguistica. Il fatto anche che l'Italia non aveva fatto i conti col proprio passato e col proprio colonialismo faceva venire anche a galla una vergogna nei confronti dell'altro e quindi anche l'incapacità di parlarne e di acquisire le voci dell'altro. E poi anche il fatto che l'Italia, il complesso dibattito statunitense era stato semplificato in quel modo, in qualche modo denunciava anche una cattiva conoscenza dell'origine di quel dibattito e una trasposizione molto semplificata e anche molto già connotata, come dicevo, in quello italiano. E poi un equivoco squisitamente linguistico, il politicamente corretto, si diceva da noi in Italia quando l'espressione entrò, si occupa soprattutto di eufemismo, cioè è come se noi sciacquassimo, lavassimo, pulissimo il linguaggio per cercare di dire alcune cose in modo un po' migliore. E da qui tutta l'ironia appunto no, del cambio da spazzino a operatore ecologico, per esempio, o altri esempi che potete avere in mente. Tuttavia, si produsse in quegli anni anche un interessante dibattito che secondo me invece, questo sì, ha ancora delle ricadute sull'oggi e delle ricadute interessanti. E cioè, con l'introduzione di politicamente corretto, seppure con quelle connotazioni che venivano dalla lettura conservatrice statunitense, si iniziò però a riflettere su alcuni termini, a riflettere in modo critico su alcuni termini, a iniziare un dibattito che riguardava non soltanto il vocabolario per sé, ma anche le persone che venivano coinvolte, le persone che venivano etichettate da certe parole. Qui avete alcuni esempi proprio di quegli anni, degli anni 90, per cui e qua devo scusarmi, io non leggerò questi esempi a voce alta per evitare di leggere alcune parole. Vi chiedo scusa se invece le ho scritte senza censurare appunto le parole in questione, perché volevo riportare filologicamente i testi. Chiedo scusa quindi alle persone che tra voi possono sentirsi urtate e offese dalla presenza di queste parole in questi esempi. Come vedete, appunto, c'è un dibattito, in particolare su una parola o su un campo semantico che è quello del colore della pelle. Si dice bisogna fare attenzione, alcuni dicono no perché l'etimologia e la tradizione, la storia della parola in italiano è diversa. Io ho studiato questi temi lungamente e anche ne ho scritto nel 2004 in un libro che si intitola Parole contro, appunto a cui dedicai un capitolo proprio alla storia di questo dibattito in particolare. E tuttavia è interessante perché da lì appunto si arrivò a delle questioni lessicali che però ci fecero capire che il lessico in qualche modo non era soltanto questione da lessicografi o da accademie, ma che riguardava la comunicazione giornalistica, che riguardava le sensibilità delle persone, non soltanto delle persone che scrivevano, ma anche delle persone che potevano leggere o che potevano sentirsi indirizzati certi epiteti o certe parole. E credo che questo sia stato uno spunto interessante all'interno del dibattito, uno spunto interessante che oggi effettivamente ci presenta molte questioni aperte. Non soltanto questo spunto, evidentemente, ma anche l'utilizzo dell'espressione politicamente corretto, ma anche il dibattito attuale sul politicamente corretto. Vi ricordate? Siamo partiti dall'idea che oggi il rischio, così viene denunciato da molti commentatori, sia quello di una dittatura del politicamente corretto. Guarda caso, chi denuncia la dittatura del politicamente corretto ha sempre un grande spazio poi sulla stampa, sugli organi di stampa. C'è un paradosso in questo, no? Ernesto Galli della Loggia che denuncia di essere in qualche modo marginalizzato, tuttavia lo denuncia dalla prima pagina del Corriere. C'è un elemento di paradosso e in qualche modo ci fa anche sorridere, però questo paradosso mette alla luce, appunto, porta alla luce alcune questioni rilevanti, secondo me. Ovvero, e qui cerco di concludere la mia presentazione oggi, e vi ringrazio per avermi ascoltato. Chi critica il politicamente corretto, il suo uso, l'espressione, ma anche l'ideologia cosiddetta politicamente corretta o il movimento, chiunque se ne faccia portavoce, dice che il politicamente corretto è un'espressione di ignoranza, cioè che la usano soprattutto le persone che non conoscono la storia, gli ignoranti. Questo viene imputato, per esempio, anche a ciò che è successo negli ultimi 2 anni, con il tentativo di abbattere alcune statue, con il tentativo, qualcuno diceva, di cancellare, no, il passato. Ebbene, il politicamente corretto darebbe un alibi a chi vuole ignorare la storia e vuole quindi anche da un giorno all'altro cancellare alcune presenze, anche appunto a livello di statuaria, di nomi di strada, eccetera. Questa è una delle critiche che viene rivolta al politicamente corretto. Oppure il politicamente corretto è una questione da privilegiati, da elite, con tutti i problemi che ci sono, no? Il cosiddetto benaltrismo, no? Con tutti i problemi che ci sono, dobbiamo davvero occuparci di linguaggio e di interrogarci su come effettivamente il linguaggio riproduce delle relazioni di potere, oppure questo anzi viene negato, oppure come il linguaggio cerca di colorare, ricolorare il modo in cui parliamo, di in qualche modo pulire il modo in cui parliamo. Forse no, abbiamo altro a cui pensare. Altra critica, il politicamente corretto spinge verso le identity politics. Questa è una critica interessante. È una critica interessante perché effettivamente il politicamente corretto, nella sua lettura più estrema, anche da parte di chi in modo progressista ha cercato di utilizzarlo per aprire la società, è stato visto come una rivendicazione continua da parte di gruppi specifici, cioè politicamente corretto, ovvero ognuno deve avere il suo spazio con la stessa voce, nello stesso modo, e quindi creiamo una società, così viene detto, di tanti segmenti che in qualche modo sono in competizione per le risorse tra di loro, anche per le risorse culturali, non solo quelle economiche. Interessante perché questo apre effettivamente il dibattito, come lo apre la critica che dice vuole tutelare i gruppi discriminati rendendoli immuni dalle critiche, cioè il politicamente corretto in qualche modo crea una specie di barriera protettiva intorno alle persone che vengono colpite da espressioni offensive, da hate speech, da razzismo, non solo linguistico, tentando appunto di dare loro sempre ragione. Interessante, ma appunto bisognerebbe disarticolarla questa critica. E questo che porta poi anche all'idea che si crea un tribalismo morale, cioè la società attraverso il politicamente corretto si chiude in tribù, in segmenti, uno contro l'altro, e ognuno di essi pensa di avere il dominio o diciamo così, l'autorità morale per dire agli altri come comportarsi. E poi, appunto, questo comporta anche un'adesione cieca e acritica del politicamente corretto, cioè nel momento in cui si sostengono alcune delle sue istanze, si diventa critici e anzi si diventa appunto giudicanti nei confronti di chi invece non si attiene a queste istanze. E la cosa interessante, e qui veramente vado poi verso la chiusura, il politicamente corretto, questa invece è una critica che si trova anche nel libro Non si può più dire niente, che ho citato all'inizio, in qualche modo ha spostato il dibattito sull'asse dei diritti civili o dei conflitti culturali, mettendo ai margini un po' i conflitti di classe e i conflitti reali di potere all'interno della società. Ora, questa critica è interessante e ha le sue ragioni, tuttavia ci si dimentica che si può combattere sia per i diritti culturali, quindi sul piano culturale e delle rappresentazioni, sia anche ovviamente sul piano dei conflitti di classe e della richiesta di maggiori diritti di cittadinanza e anche di eliminare le diseguaglianze economiche. Quindi il politicamente corretto non dice, Questa è una distorsione, non dice che bisogna concentrarsi solo su alcuni aspetti, dice anzi che il linguaggio fa emergere delle contraddizioni che andrebbero affrontate molto in profondità. E quindi, lo dice un contributo nel libro che ho citato, appunto Non si può più dire niente, il politicamente corretto non solo, e tutte queste cose qui, dicono i critici, ma dovrebbe essere più radicale, dovrebbe invece dedicarsi di più proprio al conflitto di classe e introdurre, includere in sé gli elementi appunto economici di diseguaglianza economica. Interessante, ma interessante ancora di più è quello che dice Raffaele Alberto Ventura nel libro appunto Non si può più dire niente. Perché oggi ci interessa parlare di politicamente corretto e perché dobbiamo in qualche modo continuare a parlarne però in modo contestualizzato, in modo ragionato, in modo argomentato, tenendo conto di come il dibattito sia stato distorto da quelle letture degli anni 90, appunto conservatrici. Dobbiamo depurare il dibattito da quelle letture per tornare a occuparci delle istanze vere, concrete, precise, che sono venute a galla attraverso il politicamente corretto. Allora, Ventura dice delle cose che io condivido, cioè il politicamente corretto esiste. È vero che esiste, non esiste la dittatura del politicamente corretto, è tutta da dimostrare, al punto che chi la denuncia in realtà usa ancora più di altri mezzi di comunicazione di massa, quindi non c'è una dittatura al contrario, no? C'è la dittatura quasi di chi dice che c'è una dittatura, no? Perché chi lo dice è onnipresente nei mezzi di comunicazione di massa. Tuttavia, politicamente corretto come istanze, come elemento critico all'interno della società, di riflessione sul linguaggio, sulle strutture portanti anche di potere, esiste, è esistito ed è giusto dirlo. Negare che esista un discorso sul politicamente corretto non ci giova, non ci gioverebbe. E perché lo neghiamo di solito? Perché abbiamo paura che altrimenti questo dia ragione a chi dice che c'è una dittatura del politicamente corretto. No, non c'è una dittatura, tuttavia occorre riflettere su 40 anni, anche più, di processi e di riflessioni critiche appunto sul linguaggio e sulle strutture di potere. E poi non, vi chiedo di andare a leggere il contributo di Raffaele Alberto Ventura sul libro no? Non si può più dire niente, nel libro Non si può più dire niente, dove vi spiega tutto questo suo decalogo, queste 10 tesi. A me interessa, per finire, dire che non soltanto il politicamente corretto esiste e dobbiamo parlarne, ma dobbiamo parlarne in certi modi, dobbiamo appunto leggere i fenomeni in profondità, dobbiamo depurare il dibattito da quelle distorsioni, ma dobbiamo anche capire che forse la società complessa, cosiddetta multiculturale, multivocale, non si può, dice Ventura, cercare di gestire e non si possono negoziare i conflitti all'interno di questa società se non c'è una riflessione approfondita proprio sul politicamente corretto, cioè sulla lingua, sul linguaggio, sulle rappresentazioni, ma anche su chi detiene il potere della lingua, chi dice che bisogna dire certe cose. E il dibattito anglosassone che deve, per esempio, dirci come riflettere su temi quali la decolonizzazione, il multiculturalismo, l'inclusione sociale. Forse no, forse ci sono anche dei modi nostri, no? Appunto, un dibattito italiano che ci può aiutare attraverso le nuove cittadinanze a riflettere in modo originale su questi temi. E però dobbiamo farlo se vogliamo cercare di negoziare i conflitti e di padroneggiare, dice Ventura, appunto, la società multiculturale, non soltanto dal punto di vista dell'elite, ricordate la critica, ma anche dal basso, evidentemente, dal punto di vista della società civile. E poi, dice Raffaele Alberto Ventura, per pacificare la società bisogna codificare stabilmente le regole di comunicazione. Ecco, questo credo sia interessante, ne parlerete voi diffusamente oggi. La riflessione sul linguaggio non è soltanto una riflessione sulle parole, su che cosa occorrerebbe dire o che cosa no, su chi dice che qualcosa è giusto o qualcosa è sbagliato, ma è anche un modo per riflettere sui codici, sui canali in cui usiamo questi codici, sul modo anche di avere delle regole comuni che intanto ci facciano usare le parole giuste nei contesti giusti, appropriati, delle regole comuni che ci dicano che la comunicazione sui social media, per esempio, va gestita e bisogna essere consapevoli dei rischi e delle sfide che lì si vivono e si esperiscono, e bisogna anche effettivamente però riportare il politicamente corretto come tema centrale di rottura degli schemi di potere, di rottura del dominio anche linguistico di alcune classi su altre, di rottura rottura di alcuni schemi della comunicazione che sono sempre però top-down, ebbene, dobbiamo riportare questo al centro del dibattito politico proprio per dare voce non soltanto alle persone, ma anche alle istanze di uguaglianza, di rappresentanza e di cittadinanza, appunto, che vogliamo, spero, vedere nella società che stiamo, spero, mi auguro, costruendo. Io vi ringrazio e chiudo qui il mio racconto, sperando di aver dato degli stimoli utili al dibattito. Grazie davvero Federico, perché il tuo è stato un intervento estremamente ricco di spunti. Mi sono dimenticata di dire, l'ho dato un po' per implicito, che ovviamente è un incontro che apre al dibattito. Lo spazio per interventi lo teniamo al fondo, non perché sia poco importante, ma per fornire appunto una collezione di punti di vista. E quindi mi sono anche scordata, scusate, la prima volta che coordino un tavolo, di presentare in modo più esaustivo Federico, e quindi sottolineare come accanto al suo ruolo di professore all'Università di Reading, in realtà da oltre 20 anni lavora sulla costruzione linguistica della diversità, sulla rappresentazione delle minoranze nel discorso politico e mediatico, sul linguaggio, discriminazione, su hate speech. Ovviamente tutta la tua passione e tutta la tua competenza è emersa in questo tuo intervento, e coordini la Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d'Odio, collabora con Amnesty International e la Fondazione Alexander Langer, e moltissime sono le tue pubblicazioni, ne cito solo insomma, alcune: Razzisti a parole per tacere dei fatti del 2011, tra le più recenti Brevi lezioni sul linguaggio del 2019, Hashtag Odio, manuale di resistenza alla violenza delle parole del 2020, e dello scorso anno Trovare le parole, abecedario per una comunicazione consapevole. Quindi ti chiedo scusa per la gaffe di non aver dato prima questa introduzione più estesa. Ti ringrazio ancora per il ricco intervento, e passerei ora la parola a... Manuela, se Sì? posso, sono io che ringrazio Certo. te, non devi affatto scusarti, ci mancherebbe, sono io che vi chiedo scusa, invece non sono particolarmente efficace e lucido oggi perché non sto bene, altrimenti sarei lì con voi e anche la mia, diciamo così, la mia lezione non è stata fluida come avrei voluto. Spero però che attraverso le slide abbiate avuto qualche spunto, qualche stimolo. Vi ringrazio molto per l'attenzione e vi auguro appunto un buon proseguimento dei lavori e saluto appunto tutte le persone che sono lì con voi. Grazie davvero.